Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. A 38 anni ho avuto più richieste di quando ero 28 anni. O cercavo l'adrenalina per farmi uscire l'ultima adrenalina di me, perché a questa età non è che giochi per economia o qualcosa così. Ho parlato tanto con Boban e poi dopo Atalanta c'era tante chiamate. Detto che era impossibile tornare, poi ho tornato in campo e fino a che posso giocare gioco, poi non è che gioco come avevo 28 anni, impossibile, però uno che sa giocare lo sa cosa deve fare, non bisogna esagerare quando giochi, invece di correre puoi tirare da 40 metri, no? Milan è come casa mia, vengo per aiutare, migliorare le cose, soprattutto l'ultima partita non era wow, ma obiettivi non è 100 metri sprint, è un marathon, si lavora, è un work in progress, bisogna lavorare tanto e credere. Ho parlato ieri con mister e mi ha chiesto come stai così, ho detto che sto bene. Non ho toccato pallone da ultima partita che ho giocato, però toccare pallone non c'è problema. Ed eccoci qua, The New Pope. Zlatan Ibrahimovic ha parlato urbi e torbi questa mattina. Naturalmente adesso il prossimo passo sarà quello più importante. Toccare pallone non c'è problema. Che problema vuoi che c'è a toccare pallone? Nessuno, però non ne tocca uno dal 20 di ottobre. Ora il Milan gioca contro la Sampdoria, c'è chi dice Ibrahimovic potrebbe essere pronto subito, io dico perché no, se è in condizioni fisiche accettabili subito dentro, nessuna spalla in Coppa Italia, sarebbe bello vedere Ibra, già che siamo ormai a Disneyland, vederlo subito in campo. 800 24 00 24, numero verde per sentire cosa ne pensate, 349 238 6666, WhatsApp vocali, mentre io sto rivedendo in televisione le immagini della presentazione di questa mattina in quel tavolo che insomma avrà eccitato molti milanisti di vecchia data: Boban, Ibrahimovic, Maldini, che peraltro non ha detto una parola e non ha elargito nemmeno troppi sorrisi, e poi il quarto del pollo a poker, ma è un'altra cosa, è Massara, che c'entra non tantissimo questo tavolo, con una faccia di circostanza, nessuna parola nemmeno per lui. Cosa ha detto Boban? Ve lo facciamo sentire subito e poi torniamo sull'argomento Ibrahimovic. Tra l'altro poi vi regalerò un'altra suggestione relativa al basket, che riguarda sempre Milano, del passato e del presente e probabilmente pure del futuro. Allora, Boban, vista la, diciamo, pazzia quasi mediatica e giusta che porta Zlatan, non vorrei che si scordasse il Bergamo, e quindi quella orrenda e inaccettabile sconfitta, e nessuno di noi, tantomeno la squadra, si deve nascondere dietro le spalle larghissime di Zlatan. Allora, Zlatan era qui per parlare, naturalmente oggi abito scuro, cravatta nera e camicia bianca, ma anche per porre delle domande. Quali? Sentite qui. Come va cavallo, bene? Allora, il mio cavallo Ibra Supremacy andava così forte che tu a piedi lo battevi, quindi, sì, l'ho regalato alla quarta corsa dove è arrivato Ultus, dovevo cambiare cavallo. Dovevi prendere me. Esatto. Carlo Belegatti, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Ciao Carletto, ti ha fatto subito domande sul tuo cavallo, che si chiamava come lui. Sì, perché quando era a Milan io ho comprato un cavallo in Inghilterra, e allora non aveva ancora il nome. Quando tu compri un puledro spesso non hanno i nomi, uh-huh, e li metti tu, e allora l'ho chiamato col soprannome Ibra Supremacy. Era anche un bel figlio di Tiger Hill, un stallone di moda in quel momento, però proprio poverino non andava, ha fatto tre corse ma sempre ultimo, quando girava la curva era già ormai, come diciamo noi, con la frusta, quindi non andava avanti. Però lui, gli avevo dato la fotografia, voleva venirlo a vedere coi figli, si ricordava, non avevo dubbi che Rick si ricordasse più che di me del cavallo Ibra Suprema. Sì, poi sai, lo vedevo sempre, in quei periodi lì era un po' diversa, e quindi mi ha chiesto questa cosa di questo cavallo che aveva un bel nome, il suo soprannome purtroppo non andava come lui. Ascolta, invece del cartonato è arrivato alla fine quello vero, anche se, così ti faccio arrabbiare subito, un'intervista qua sotto al Sole 24 Ore, un collega amico dichiaratamente sfacciatamente interista ha fatto notare che manca un meno su quella maglia numero 21 di Ibra. Sì, va bene, ma in questi casi io uso un proverbio, anche se a me non fanno impazzire: quando sei in martello dai, quando sei in cudine stai. In questo momento bisogna stare tranquilli. Molto intelligentemente hai mandato le parole di Boban, perché ha parlato a lungo Ibrahimovic, ma le parole secondo me più dure e taglienti sono ancora quelle di Boban, che ha replicato il colloquio che Maldini ha avuto con la squadra: una sconfitta inaccettabile nei modi, nei termini. Non c'è un motivo, il Natale, la forza dell'Atalanta, puoi mettere tutto quello che vuoi, ma non si può non entrare in campo. Quindi giustamente Boban ha detto: non nascondiamoci dietro le spalle di Ibrahimovic. Sì. E gli interisti possono dire, sentivo l'altro giorno un altro autorevole, giornalista, se io gli dico collega si offende lui, quindi, perché immaginandolo, che ha detto che lo chiama l'immobiliarista. Materazzi ha detto che grazie perché è andato via così abbiamo vinto la Coppa. In questi casi bisogna solo stare zitto, sperando che Ibrahimovic sia l'Ibrahimovic non quello che conoscevamo, ma un Ibrahimovic che possa fare la differenza in questa squadra, e lasciar parlare chi parla di immobiliarista, eccetera. È inutile replicare. Guarda, l'amico Simone Sandri da New York, l'abbiamo sentito ieri pubblicamente, come ovvio, ha detto che lui lo vede da due anni in America, dice comunque guardate che questo qui può ancora fare. Poi c'è chi dice che è vecchio, c'è chi dice che è la mossa della disperazione rossonera. Allora, rispetto a tanta gente che parla, io sono fra i pochi che ho visto i 90 minuti della sua ultima partita. Se tu vai in giro a chiedere, ci sono molti. E ho visto la partita a Los Angeles, lo gliel'ho detto oggi, Los Angeles, l'FC Los Angeles contro il Galaxy, il derby. Lui allora non ha perso un contrasto di testa, non ha perso un contrasto fisico, ha dato tre assist di cui uno vincente e l'altro ha sbagliato sciaguratamente Alessandrini, e ha segnato un gol. Chiaro che continuano a dire il campionato americano, eccetera, però voglio dire, campionato italiano, prendi quelle 4-5 squadre forti, poi a livello di fisicità, il campionato americano a livello di fisicità è simile, e quindi lì lui può fare ancora la differenza. Avendolo visto, per me può fare ancora la differenza. Senti, io dico che i boccia del Milan possono imparare da lui anche come ci si infilano i calzettoni, perché comunque il valore aggiunto di Ibrahimovic sarà anche nel modo di essere, facciamo così, un grande professionista, di essere comunque uno che le ha viste tutte, comunque uno che ha vinto tutto o quasi, e comunque uno che ha carisma per tutti gli altri. Guarda, per quello che riguarda il discorso, questo discorso è un discorso che fai tu, ma è un discorso che mi ha fatto personalmente Boban alla festa del Milan. Mi ha fatto prima, ha detto, con lui un Leao che Leao può imparare in tre mesi quello che magari con un altro imparerebbe in tre anni. Quindi non sono io in sintonia con te, ma sono in sintonia anche l'ambiente rossonero, quindi Boban, e quindi autorevole sintonia. L'ultima cosa che ti chiedo, e poi ti lascio ai tuoi, suppongo, milioni di impegni, non tocca parlare dal 20 ottobre, l'abbiamo detto, però a questo punto in campo con la Sampdoria, almeno in panchina? Per me non ci sono dubbi. Anch'io pensavo che sarebbe stato pronto verso metà mese, no? Uh-huh. E invece già ieri è andato, ha parlato con Pioli, oggi voglio giocare, giocherà un quarto d'ora, 20 minuti contro la Rodense, squadra di eccellenza sicuramente, e il giro di campo con la Sampdoria non ci sarà. lui pensa, mentre gli 11 si alleveranno sotto la tribuna arancio come sempre, sai, prima della partita si mettono a 11, sì. Poi invece l'altro gruppo con un altro preparatore, gli altri 10 si mettono magari sotto la tribuna rossa, di solito funziona così, e almeno al Milan, e sicuramente lui sarà là a palleggiare, quindi tutti gli occhi saranno per lui, sicuramente. Poi immagino già il boato quando a 5, 10, 15, 20, non lo so, dipenderà da Pioli, si alzerà. Potrebbe, non solo il boato si alza un po' il morale di tutti i tifosi del Milan, che magari qualcuno sorriderà, ma si ritrovano a rivivere delle cose che da tanto tempo non rivivano, cioè di emettere un giocatore di un carisma eccezionale, di una bravura eccezionale, di un giocatore che ha fatto la differenza in tutta Europa. Quindi dobbiamo, ti dico, esagero, prendo un giocatore molto forte, Mertens. Uh-huh. Ebbene, in questo momento, a livello tecnico, certo, un grande giocatore, ma in questo momento al Milan serve più Ibrahimovic che Mertens, non per la qualità di Mertens, che è un giocatore fortissimo, ma proprio perché ci sarebbe stato più il rischio che Mertens venisse, buttato giù, messo, attirato nei gorghi del Milan di adesso, piuttosto che Ibrahimovic. Questo è il mio pensiero. Come sai, sono sempre stato d'accordo con te su questa vicenda fin dal minuto zero. Grazie Carlo, un abbraccio, a presto. Un abbraccio anche a voi, buon pomeriggio e buon anno. Buon anno, naturalmente, buon 2020. Allora, vi faccio sentire un po' di umori dei tifosi, vi faccio sentire anche al nostro prossimo ospite e poi li commentiamo insieme. Ragazzi, a me mi viene da piangere. Questo è l'esempio lampante della caduta di un mito del club del Milan. Cioè, perché prendere Ibrahimovic a 37 anni? Questo è veramente essere caduto in basso. Basta poco per accontentare dei tifosotti che sono l'essenza dell'ignoranza calcistica. Basta prendere un giocatore di 38 anni e trasformarlo in divo prima ancora che scadano un anno e mezzo, che gli scada il contratto. Preferisco che mi fischiano perché così mi esce più adrenalina, però dopo partita possono applaudire, no? Che piacere ritrovarti Andrea Scanzi, buongiorno. È piacere tutto mio, ciao Carlo, ciao a tutti, auguri. Hai sentito un po' di umori di milanismo o antimilanismo, ma il tuo qual è di umore? Sono diffidente Carlo, ho sentito con attenzione anche più legati prima, mi sembra la mossa della disperazione, massimo rispetto per Ibrahimovic, la scelta ci sta anche perché è una squadra senza capo né coda che ha bisogno di una chioccia e quindi ci sta che un uomo così carismatico come lui possa aiutare la squadra, però sai, quando una società che si è rappresentata dicendo puntiamo sui giovani, puntiamo sulla svolta generazionale, si riduce a inizio gennaio, fine dicembre a prendere un 38enne, evidentemente significa che quello che è stato fatto finora al netto di Ibrahimovic è stato totalmente sbagliato. Per quello sono perplesso, perché ammesso che lui stia bene, che sia in forma come spero e auspico, è difficile esaltarsi per un giocatore di 38 anni che bene che vada ci fa arrivare settimi, quindi insomma siamo lì a festeggiare, a fare le nozze coi fichi secchi. Però continuo a pensare, Andrea, che con i soli giovani sia una scommessa abbastanza perdente, anche se vuoi costruire qualcosa per il futuro, si tratta di capire chi vale e chi no, di scremare un po' questo gruppo, perché così non si capisce quasi nulla, no? Non capisci neanche può essere funzionale a un progetto di ricostruzione futura. Sembrano tutti giocatori medi, senza grande carisma, senza grande personalità. Sono totalmente d'accordo con te, ma infatti era sbagliato puntare solo sui giovani, ancor più se i giovani non erano tutti questi fenomeni. Per fare un esempio, Paquetà, che è stato pagato ore, non mi sembra che sia esattamente il nuovo Kakà, come ce l'avevano descritto, sbagliando tutto anche il ruolo. E il problema è che Ibrahimovic, secondo me, arriva in un momento in cui potrà fare poco, è tutto lì il discorso. Mi sembra una toppa che può essere addirittura peggio del buco, al netto del talento smisurato che ha Ibrahimovic, del carisma, della forza. Ci sta, la ratio che è alla base di tutto è... prendiamo un vecchietto, tra mille virgolette, che può dare carisma e può insegnare ai giovani, ai medi, come l'hai chiamato tu, come si fa a vincere. Questo, in questo è bravissimo lui. Però sai, come fa a farlo dal 3 di gennaio in una stagione dove tutto è sbagliato, dove se va bene arrivi sesto, ma deve andare veramente tutto bene. E poi è comunque un Ibrahimovic che da 4 anni cioè dal famoso infortunio dell'aprile 2017, tre anni, quindi diciamo che non è più quello di prima, quindi va anche valutato perché ha fatto dei gol pazzeschi negli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti, quella lega lì non è esattamente la Serie A italiana, sì. Quindi un po' di perplessità c'è. Sì, certo. Cioè, ti faccio notare che il protagonista del tuo ultimo successo letterario ha detto, ha detto che va bene, perché tanto lui gli stranieri solo quando non c'è di mezzo il calcio. Se c'è il calcio, Ibra va bene perché non toglie il posto a nessun giovane italiano. Là davanti c'è un polacco, c'è un portoghese, c'è gente comunque di altra nazionalità. Quindi a lui va bene. Ma mi fa piacere, diciamo che tra le tante cose che discuto di Salvini non c'è l'elemento calcistico, perché almeno in questo ci somigliamo. Ha un'idea di sovranismo molto bislacca e bizzarra, credo sì. Che il problema di Ibrahimovic non sia quello di rubare il gioco e il posto a un italiano, ma sia evidentemente se è logico o meno utilizzarlo. Poi secondo me, per esempio, accanto a Leao potrebbe fare delle buone cose, in un 4-4-2 o un 4-3-1-2, lui e Leao insieme potrebbero essere sì. Divertenti, se però gira tutta la squadra, perché siamo sempre lì, Carlo, questa squadra è piena di punti deboli e di medietà, non sono neanche scarti, perché non sono né scarti né altri, esatto. sono medi. una squadra media, non è né bianco né nero e grigio, e Maradona esatto. Dicevo blanco o negro, gris mai, te lo ricordi anche tu? E me lo ricordo, infatti il peggio è proprio essere grigi, che peggio questo, perché sai, se sono scarsi lo ammetti, invece qui non sai neanche come intervenire perché siamo su quel 5,5, 6 meno perenne. Però converrai con me, e qui mi rivolgo all'Andrea Scanzi, storyteller, che è un personaggio meraviglioso da raccontare. Ora, al di là delle bandiere, del tifo, di tutto quello che vuoi, io sono, cioè mi si apre il cuore a vedere un personaggio così che torna al calcio italiano, uno che è tutto fuorché medio. Totalmente d'accordo, da un punto di vista di narrazione, di storytelling, Ibrahimovic al Milan, in generale in Serie A, è una manna dal cielo, è uno che fa notizie anche quando non fa niente, è uno che è divertente da ascoltare nelle interviste, non è mai banale, è costantemente provocatorio, però avendo anche un contenuto dentro, e in campo quando sta bene anche solo 5-10 minuti a partita fa delle cose pazzesche, quindi il suo ritorno è sicuramente una bella notizia. Le mie perplessità sono da milanista, sì, ma non sì. Sono assolutamente da sportivo e da narratore sono contento come un bambino di rivederlo, magari già anche con la Sampdoria. Sì, poi chi dice voi giornalisti vi serve per i titoli, vi serve per questo, ma a me, io voglio Mourinho, voglio 10 Mourinho, voglio 10 Ibrahimovic, voglio poco grigiore e voglio molte storie da raccontare, sportive o di altra natura, però è in fondo il sale di tutto, siamo qui per divertirci. E a questo proposito mi rivolgo ancora all'Andrea Scanzi e alle tue mille incarnazioni. Zelig Scanzi, iconico tavolo oggi, che impressione ti ha fatto, ti chiedo? Boban, Ibra, Maldini ingrugnito, no? Detto una parola, né dato un sorriso, e poi il quarto, insomma, ho detto prima pollo a poker, non è così poveretto, però Massara non c'entra tantissimo quel tavolo lì. No, allora Massara io devo ancora capire esattamente che ruolo abbia, o meglio lo so, che cosa faccia, diciamo così, mi limito a dirla con questo eufemismo. Ho notato anch'io la mestizia che trasudava dallo sguardo di Maldini, che credo sia quello meno convinto anche dell'arrivo di Ibrahimovic, ma soprattutto si senta quello più colpevole di quello che sta non funzionando, cioè tutti in questa stagione. Sai, un po' di malinconia ti prende, perché vedi comunque Boban, Ibrahimovic e Maldini accanto, ti rendi conto che il tempo è passato e ti rendi conto che non necessariamente i grandi campioni, perché lo sono stati, sono anche dei grandi dirigenti. Forse quello che soffre di più è Boban, perché Boban è sempre stato una grande testa, oltre che un grandissimo giocatore, anche un grande dirigente. Ha rischiato tutto, perché ha abbandonato un ruolo da dirigente dove stava benissimo, non rischiava nulla e veniva pagato da Dio per tornare al Milan, e si rende conto che al momento non sta funzionando. No, sono i grandi sconfitti fin qui della stagione, secondo me. Poi la strada è lunga, la vita è lunga, e soprattutto la loro carriera da dirigente è lunga, perché è appena cominciata. Certo, assolutamente. Andrea, grazie davvero, sempre un piacere. Grazie a te, a voi, un abbraccio. Auguri, buon anno, Andrea Scanzi. Ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde. Poi io vi chiedo, potete rispondere anche con il WhatsApp, ma voi contro la Sampdoria, quel numero 21 o meno 21 secondo gli interisti, ovviamente con riferimento alla classifica, lo vorreste vedere subito in campo oppure no? Troppo circo per questi giorni. Walter, buongiorno. Buongiorno, ma io non sono milanista, premetto, quindi... Però di fronte all'autorevolezza del signor Pelagatta, che paragona il campionato americano con l'italiano... tanto di cappello, se lo dice lui, comunque a me mi sembra che siete diventati troppi tutti milanisti di fronte a queste cose qua. Io non ho più parole, è una cosa, non mi sembra assolutamente rispettosa nei confronti del campionato italiano, del calcio moderno, fondamentalmente il calcio moderno, cioè perché anche non... perché ho 60 anni e grazie a Dio un po' di calcio ne ho visto. Mi par di capire che lei non è così convinto del ritorno di Ibrahimovic nel campionato italiano, non è così entusiasta di queste idee. Ha detto lei la parola esatta prima, ha parlato di circo, non ha parlato di calcio. Sì. Chiedo scusa, perdonatemi il mio intervento, ma vostre impressioni. Non è questo il discorso. Come converrà con me che comunque vedere. Poi vediamo, che ha detto che può arrivare sesto in Milan, voglio dire, non so quanti punti ha dalla sesta, quindi no, tanti, troppi, ma paradossalmente per il Milan in questa stagione non è nemmeno una questione di risultati, tanto dove vuole che vada, cioè non va da nessuna parte. Ma poi sarà, mi sembra che il Peragato paragonava pure la partita dell'Atalanta con una partita del calcio americano. Non era quello il paragone, ha detto dal punto di vista fisico non è, c'è tutta questa differenza tra il calcio americano e quello italiano, però ci sono molti punti di vista, compreso quello tecnico, compreso quello della velocità del gioco, compreso quello tattico, che tengono ovviamente le distanze lunghe. Però saremo qui tutti insieme, e questa è la suggestione, a vedere Ibrahimovic che combina ancora qualcosa oppure che fallisce clamorosamente, e in entrambi i casi, detta un po' cinicamente, sarà una storia abbastanza divertente. Tutto qui. Tutto questa la suggestione che ci porta l'arrivo di Ibra. Grazie Walter, grazie davvero, torni a trovarci quando vuole. Aldo, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono milanista sicuramente da sempre, quindi contentissimo. Per me subito in campo, anche in panchina, mette paura anche stando in panchina. Secondo me, se la Sampdoria vede che lui è in panchina starà tranquilla per non stuzzicare il Milan, avendo paura che se no lo mettono dentro. Quindi già è un vantaggio quello. Questa l'ha presa da Pelegatti però? No, questa l'ho presa da un milanista che è ancora più di Pelegatti, che è il sottoscritto. No, perché un giorno parlando, quando era ancora ipotesi, no, parlando con Pelegatti lui diceva: ma immaginate, cioè, qua adesso sei al 60° di una partita, dalla panchina si alza, faccio per dire, Leao, vabbè, porta relativamente a quelli che la stanno guardando, dalla panchina si alza Ibrahimovic, è un po' un'altra cosa, è questo il senso, no Aldo? È altro che, ripeto, mette paura anche stando in panchina. Secondo me davvero la Sampdoria, per lei è meglio lo 0-0 che andare in vantaggio, perché se va in vantaggio può stuzzicare e fare entrare Ibra, e allora può essere una cosa brutta per loro. Sì, c'è anche comunque il rischio che, insomma, noi ci ricordiamo di Ibrahimovic, stiamo vedendo tutti i suoi gol di repertorio, no? In questi giorni. Il problema è che sono ormai immagini d'archivio, non dico immagini d'epoca, però immagini d'archivio. Insomma, sarà molto difficile parametrare quello che vedremo dalla partita con la Sampdoria, immagino, in poi, rispetto a quelle immagini lì. Su questo penso possiamo essere tutti d'accordo, no? Ma questo è sicuro, che lui stesso lo dice: io non ho più 28 anni, non è più quello stesso giocatore. Ma noi basta anche che sia il 50% di quello lì. Poi ripeto, il carisma, il peso, proprio anche il fisico, mette comunque paura anche a 70 anni. Io credo che uno così, in una squadra mediocre come questa, non può che far alzare di un 20% il livello, quindi io mi presumo un 20% di punti in più grazie a lui. Grazie Aldo, buongiorno. Grazie. Buongiorno, buon anno, buon Ibra. Allora, adesso ci fermiamo per la borsa, poi torniamo perché vi ho promesso un'altra suggestione. C'è, vediamo se indovinate, avete tempo, lo stacco della borsa più pubblicità, potete rispondere anche WhatsApp. C'è un altro che arrivò, tornò a Milano, una squadra non di calcio, a 38 anni. Quell'anno Milano finì in finale scudetto, poi persa. E questo Mister X dominò mentalmente, io c'ero a vedere quella partita, dominò mentalmente, emotivamente, tecnicamente quella finale scudetto, e di anni appunto ne aveva 38. Chi è? Borsa. Dopo la prosopopea di De Rossi in Argentina, ora ci tocca quella di Ibra. Ma non impariamo mai la lezione. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta... Per valorizzare un buon piatto scegli il vino giusto. Per valorizzare la tua casa scegli l'arredo migliore. Per valorizzare i tuoi risparmi scegli che banca. Conto deposito, 1% annuo lordo sulla nuova liquidità vincolata a 6 mesi. Offerta valida per vincoli effettuati entro il 29 febbraio 2020. Con il supporto dei nostri consulenti, trova le soluzioni di risparmio e investimento adatte ai tuoi obiettivi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non costituisce una sollecitazione né una raccomandazione di investimento. Fogli e documenti informativi su chebanca.it. Che banca, gruppo Medio Banca. Rinnova e risparmia da Euronics. Fino al 22 gennaio scegli la tecnologia che conviene. L'imperdibile FIFA 20 per PS4 e Xbox One, tuo a soli €39,99. Nei negozi Euronics aderenti e su euronics.it. Salvo esaurimento scorte. Sono Vito Grassi. Le aziende devono partecipare a Connext perché è un modo di coniugare la cultura d'impresa di Confindustria con l'innovazione tecnologica dettata dal mondo digitale. Connext è a Milano il 27 e 28 febbraio. Scopri di più su connext.confindustria.it. Tutti convocati. Poi, ma non vi ricordate quanti gol fece Nocerino l'ultimo anno che giocò insieme a Ibra? Ve lo ricordate? Dai! Subito in campo Ibrahimovic, subito, subito. Quando vai in guerra e hai il cannone, che sia nuovo o che sia vecchio, devi usarlo subito, se no il nemico non capisce da che parte sei. Popolo dei WhatsApp 349-238-6666, come sempre li trovo divertentissimi. Bravi. Allora, primo detto, non è Dino Meneghin, perché Dino Meneghin arrivò a Milano, anche questa è un'altra storia, a 30 anni nell'81, lui è classe 50, come giocatore praticamente finito. Arrivò a Milano e si fece male subito a un ginocchio, al menisco, rimase fuori in metà della stagione. Tu devi dire, ecco, ci hanno venduto un vecchio bidone rotto. Quello che ha fatto dopo Meneghin a Milano, lo sapete tutti, è cronaca, anzi storia. Comunque non è Meneghin, non è Mike D'Antoni, perché D'Antoni, insomma, la storia di D'Antoni con Milano iniziò molto prima. È invece un signore che adesso è avversario di Milano. E che avversario? Buongiorno Walter Fuochi, che piacere. Buongiorno. Ciao. Mi è venuta in mente questa cosa, no, negli Ibra Days. Cioè, all'inizio del 2005 un ragazzino di 38 anni che si chiamava Sasha Georgievich tornò a Milano. Ti ricordi bene? Immagino. Sì, benissimo. Chiuse dominando, oltre che per i numeri e per il risultato, perché perse quella finale scudetto, quella del famoso canestro di Ruben Dagas contro la Fortitudo, dominando letteralmente quella partita. Poi Sasha ha smesso di giocare perché non ce la faceva più fisicamente, però un 38enne che a Milano ha dato ancora qualcosa al suo ritorno. Sì. Io vidi quella partita, fu l'ultima partita in campo di Georgievich, fu decisa dall'extra time, quella che chiamammo sui giornali la muvola del basket. Fu osservato il momento in cui fu sferrato il tiro di Douglas, fu assegnato la vittoria e lo scudetto alla Fortitudo, e da quella sera Georgievich non è più tornato in campo. Sì, in compenso è tornato in panchina, dopo ha allenato Milano, dopo un po' di resistenze e un po' di girovagare con molta fortuna. Adesso noi che abbiamo un po' di nostalgia, oggi ho letto con attenzione il tuo pezzo su Repubblica, scintille fra Georgievich e Messina, noi con un po' di nostalgia abbiamo tanta voglia di rivedere il basket anche parlato, anche battibeccato, abbiamo tanta voglia di personaggi e di sfide, Walter. Sai, abbiamo voglia di un duello, e da molti anni nel basket italiano non ci sono due contendenti, e le sale di tutti gli sport sono le grandi sfide, da Bartali Coppi in giù, e questo ci manca, ci è mancato nel lungo periodo del monopolio senese, anche viziato da qualche errore di forma, diciamo così, e ci è mancato anche dopo, in cui l'annunciato monopolio milanese è stato invece scalpellato da realtà che, non si offenderanno, sono di provincia, Sassari, Venezia. morale, Bologna non vince uno scudetto da 15 anni, da quella sera in cui Giorgio si tolse le mutande. La Virtus non lo vince da 19 anni. Beh, se ci fosse un bel Bologna a Milano per il prossimo quinquennio, credo che saremmo tutti felici. E poi, se a condirlo ci fossero due allenatori di statura internazionale, in ogni caso, scegliete voi chi sia il migliore, come Messina e Giorgiovic, tanto bravissimo, meglio ancora. Sì. Hanno cominciato, secondo me non finisce qui. Secondo me è appena cominciata. Oggetto del contendere, vabbè, la sfida dell'altro giorno, tra l'altro, ritorno del basket su Rai 2, la partita tra Bologna e Milano è stata trasmessa in diretta sulle 2:15:30, ha fatto una mezza milionata di telespettatori. Non ricordo il basket su Rai 2 dopo gli anni 80, quando facevano il secondo tempo di una partita al sabato. Ma siamo su quelle cifre lì, le finali scudetto hanno fatto qualcosa di meglio, ma per una partita che è piovuta dal cielo, in un palinsesto probabilmente anche un po' imposto dagli investimenti pubblicitari di due grossi investitori, e non è stata pubblicizzata come si doveva, insomma è passata un po' in cavalleria, ha fatto mezzo milione, non è male secondo me, in una TV poi che tu me lo insegni meglio di me, è frammentata negli ascolti, negli share, in modo che vent'anni fa non era nemmeno paragonabile. Secondo me siamo partiti bene, poi due hanno cominciato a battibeccare, in campo abbiamo visto una partita degna, non bellissima ma degna, e abbiamo visto campioni, potremmo essere all'alba di una giornata radiosa. Sì, è quello che pensiamo tutti, che ci auguriamo tutti e che in parte diciamo tutti dall'inizio della stagione. Oggetto del contendere, Giorgiovic vince la partita, Messina fa i complimenti, Giorgiovic dice sì, però voi con il budget che avete, e poi Messina ha risposto con lettera a Repubblica Bologna, solita storia del budget, da 30 anni che mi dicono che vinco perché alleno squadre forti, così facendo si mettono pressione da soli. Dove sta la verità, se c'è una verità? La verità sta nella composizione della squadra di Milano, che è stata fatta per giocare due tornei importanti, per vincere il campionato e per competere ad alto livello nell'Eurolega. Se vuoi competere ad alto livello nell'Eurolega devi armare una corazzata. È chiaro che poi ti aspetti, e tutti si aspettano, che quella corazzata nelle acque territoriali navighi da dominatrice. La Virtus un po' si è nascosta, fa una coppa minore, non ha mire immediate su un campionato nel quale manca dai playoff da tempo immemorabile, quindi può stare un po' sott'acqua, ma non troppo, perché se stai sott'acqua non vai a prendere un giocatore da 2 milioni di dollari l'anno come Teodosic. Sì, se mi permetti, non vai neanche a prendere Giorgiovic, che l'anno scorso ha dichiarato quando era fuori dai playoff: adesso dove volete arrivare? Qual è l'obiettivo? Vincere l'Eurolega, è ovvio. Sì, è così. Quindi entrambi si nascondono, entrambi dissimulano. Se vuoi un parere, la migliore è ancora Milano per ampiezza d'organico e qualità delle punte di questo organico, ma Bologna, che ha vinto 21 partite su 25 finora senza avere mai avuto un infortunio, e va detto, è una seria contendente, ma dobbiamo solo metterci davanti alla TV o al Palazzo dello Sport, guardare e godere. Sì, ti regalo un'altra suggestione a proposito dell'ufficio Anagrafe. Cioè, il basket adesso è rivitalizzato comunque dall'arrivo di giocatori che non sono esattamente ragazzini. Quello che guadagna 2 milioni di dollari si chiama Mirosław Teodosic, gioca a Bologna, di anni da 32 e qualche infortunio alle spalle. Dall'altra parte c'era Ciacio Rodriguez, anni 33, senza contare Scola, anni 39. Poi non è che McAdoo, ad esempio, quando arrivò in Italia, riaccendendo Milano gli entusiasmi, eccetera, eccetera, e quella storia della 23esima squadra dell'NBA, 24esima squadra dell'NBA, come disse Peterson, insomma, fosse esattamente un ragazzino. Guarda, questo mercato non sceglie più per primo, sceglie per secondo quando va bene, delle volte per terzo. Quello buono tra i 20 e i 30 anni va a guadagnare 5-10 volte di più nella NBA, lo sappiamo, ci vanno anche dei ragazzi italiani, ci vanno dei ragazzi croati, dei ragazzi serbi, e quindi vanno tutti là. Scegli per secondo, scegli per terzo e scegli cavalli di ritorno, ma è così anche nel calcio, che tanto celebriamo cioè si va dai 30 in su per vedere i grandi nomi. Forse sono grandi nomi perché hanno già giocato tanto, devi solo augurarti che non abbia già vinto l'usura, devi augurarti di ripetere delle operazioni Meneghin, che davi per morto a 30 anni, ha giocato fino a 45 arrivando a giocare con Fufigli. Sì, sì, sicuro, lo notavo prima. Ti chiedo ancora cosa ne pensi dell'involuzione di Milano, che stasera tra l'altro gioca una partita chiave nel suo cammino verso i playoff di Eurolega. Io mi sono spinto oltre dicendo che non è blasfemo immaginare una Milano, se sta bene, se recupera tutti, se risolve i problemi che ora mi racconterai, addirittura più in alto. Cioè non è una follia pensare a una Milano da Final Four. Guarda, quando entri nelle otto dei playoff, e secondo me è un traguardo plausibile, poi ti giochi in cinque partite con una squadra di analoga cilindrata, il passaggio del turno molte volte è un centimetro, un secondo che decide, e quindi siamo in quell'ambito lì. Essere fra le otto significa essere sulla soglia delle quattro, e quindi ti può capitare di andare dentro. È un obiettivo verosimile, un obiettivo plausibile, posto che la squadra migliori ancora un po'. È una squadra che secondo me ha sofferto molti infortuni, e quindi questo è assodato, non ha mai potuto contare sul proprio organico al completo. Forse è una squadra non molto atletica, più matura tatticamente che esplosiva atleticamente, e adesso con Sykes contano di sopperire, di avere almeno un giocatore veloce, rapido, con soluzioni individuali che rompa i giochi, sì, quando i giochi, sì, proprio, sì, non funzionano. C'è un deficit, un paio di acquisti sono stati sbagliati, uno è già alla porta ed è Mac, che dovrebbe essere ceduto, sì, a ore e a giorni, e le squadre si correggono anche andando. Forse il gruppo italiano non ha più grande fiducia in se stesso, va rimotivato, ma in questo Messina qualcosa ha fatto. Io ho visto la partita col Barcellona, Della Valle giocò una gara strepitosa, non vedo perché non possa rifarla, quindi non tirerei neanche una croce sopra i poveri italiani. C'è molto da lavorare, come si dice di solito, però c'è anche materiale per lavorare bene, secondo me. La stagione non è affatto compromessa. No, Walter, tu Messina lo conosci credo da quando portava le braghe corte, no? Secondo te a che punto è del rispetto alle sue idee, ai suoi piani, ai suoi programmi, al suo modo di lavorare? Quanto può essere preoccupato in questo momento? Ma non è molto preoccupato. Io ci ho parlato anche recentemente, è fiducioso che mettendo le mani in questo impasto se ne possa cavare ancora qualcosa di buono. È una squadra solo per metà sua, è una squadra in cui lui ha ereditato molti contratti già formalizzati, e quindi giocatori che erano lì e che ti devi far piacere anche se non ti piacciono da matti. Poi qualcuno così ipercritico potrebbe aggiungere: fortuna che non l'ha fatta lui, perché tra quelli che ha preso ci sono proprio alcune grosse delusioni, quindi anche i semidei sbagliano quando scelgono. È una squadra in divenire, è una squadra che sarà più sua probabilmente l'anno prossimo, però già in questa stagione è in grado di competere per gli obiettivi che ci dicevamo, sì, scudetto e prime quattro di Europa, sì. Intanto a Bologna è Gabazza, è festa grande, perché ci sono anche i 50 anni della Fossa della Fortitudo, già iniziate le celebrazioni. Ma sai, qua è tutta una festa e tutti e questi giorni di fine anno c'è stata una compressione di eventi, sì, addirittura esagerata. Abbiamo visto il derby il giorno di Natale, abbiamo visto Virtus Olimpia il 29, quattro giorni dopo, in 100 ore ci siamo visti il meglio che ci si potesse attendere. Poi si sono divertiti più i virtusini, certamente, dei fortitudini ingoppiti da un meno 32, però i fortitudini cantano sempre, e quindi domenica festeggeranno la Fossa i suoi 50 anni, canteranno dopo il meno 32, la vita continua e la Fortitudo sesta in classifica, non se l'aspettava nessuno. No, è chiaro, è chiaro. Quindi un festa derby giustificato, da suicidarsi, sì, sì, però meglio di così non poteva andare. Grazie Walter, un abbraccio, auguri. Ciao. Ciao Walter Fuochi, ci fermiamo per il traffico e torniamo. Ma voi l'avete visto giocare Piontek o Leao? ma 10 volte Ibrahimovic su una gamba, magari mezz'ora, e soprattutto se c'è lui 70.000 San Siro. Tutti convocati. Con i tuoi nuovi compagni che sono molto giovani, pensi di essere più cattivo o più buono? Molto più cattivo, perché adesso quando ho due bimbi ho capito com'è difficile far crescere le bimbi. Da interista dico occhio, perché Ibra è sempre Ibra. Avete capito, giorni difficili per i bimbi rossoneri si prospettano. Buongiorno Tancredi Palmeri, come sta? Buongiorno, saluti dalla Sicilia, si sta discretamente. E chi sta meglio di te? I siciliani che sono resident in Sicilia, però devo dire che c'è un sole discreto che non è male. Con enorme invidia ti chiedo qual è il tuo pensiero sull'argomento di questi giorni, che ovviamente è quello di cui sopra, Ibrahimovic. Meglio avercelo che non avercelo, e soprattutto quando sento dire ma non è più Libra di 7 anni fa, mi viene da rispondere ma non è nemmeno il Milan di 7 anni fa, per cui tutto è relativo nella vita, non serve essere amico o comprare Albert Einstein al calciomercato per arrivarci, per cui se le tue alternative sono 0 gol o mezzi gol con Rebic, Leao, eccetera, Piontek, se puoi avere Ibrahimovic tanto meglio, anche perché non è che il Milan, ovvio, il sogno di arrivare quarti non lo puoi spendere, però oggettivamente è un Milan che parte da 11esimo. Io non so quanti gol farà Ibrahimovic, però con le partite che sono rimaste davanti, diciamo che 7 gol già andrebbe bene. Se ti porta dall'11esimo al 7° posto, da solo già come lui, e aiuta gli altri a migliorare, è tanto di guadagnato, voglio dire. No, poi ricordo una cosa, guarda, quando l'anno scorso Moise Kean era alla Juventus, inizio anno io ero tra quelli, c'erano tanti che erano dubbiosi sulla scelta della Juventus, del dire ma scusami, ma che te lo tieni a fare? C'hai 114 attaccanti, è arrivato Cristiano Ronaldo, non la vedrà mai la partita. E però poi ascoltando insomma chi era di nuovo, chi era là, diceva sì, ma questo sta imparando un metodo di lavoro, una maniera di lavorare, avendo accanto Cristiano Ronaldo che tu un paio di maniche, certo. E idem Ibrahimovic, proprio che era assolutamente come dicevo prima, gli altri hanno da imparare anche su come si infilica il settonio, si allaccia le scarpe, in generale sul modo di vivere la professione al massimo livello possibile, fuori di metafora. Poi vediamo cosa è in grado di dare sull'ufficio anagrafe. Io insomma prenderei una riserva, anche perché non è che Cristiano Ronaldo, di cui si è detto ha 35 anni, quelli che ha, però ha il fisico di uno che ne ha 28, 27, 26 e mezzo, 29 e un quarto. Insomma, anche per Ibrahimovic può valere grosso modo lo stesso discorso, no? Se di Cristiano Ronaldo tiriamo fuori l'età soltanto quando fa 3 o 4 partite senza far gol, anche qui la riserva può valere per Ibra. Basta vedere quanto ti costa il sacrificio. Ora è vero che uno dice guarda, uno stipendio da 3 milioni e mezzo per 6 mesi non è poco, vero, però vuol dire cosa? 6 milioni e mezzo lordi, oggigiorno 6 milioni e mezzo li dai per un magazziniere in Serie A, non per un giocatore. Se quel giocatore ti fa fare netto da solo un salto di 4 posizioni in classifica, poi bisogna vedere appunto se è sufficiente o no, però vista la situazione in cui si trova il Milan, male non fa, solo bene fa. Se ti costa solo quei 6-7 milioni, ripeto, tutti i rivoli che si sono persi tra Rebic, Duarte, eccetera, non è ovvio che è una sconfessione del progetto generale, partiamo dai giovani, costruiamo un nuovo ciclo di Milan. Però quantomeno... Sì, però ripeto, partiamo dai giovani, costruiamo un nuovo ciclo di Milan, va bene, ma mi sembra abbastanza utopico, perché nessuna squadra di livello, nemmeno quelle che si vogliono ricostruire, partono soltanto dai giovani, cioè ci deve essere un giusto equilibrio, anche perché sennò questi appunto da chi imparano. banalmente anche l'arte di stare al mondo nel professionismo. Sì, per forza, che da solo non ti può, non è che Ibrahimovic arriva, fa una cosa e tutti gli altri a cascata, perché il fatto che Cristiano Ronaldo ci sia più o meno riuscito alla Juventus è perché comunque sia la cosa poi a cascata passa attraverso Chiellini e Bonucci, e poi Buffon e poi Barzagli, quindi non è che uno cambia la realtà, ma effettivamente se non hai nessuno è quello serve come il pane. E il Milan che aveva nel 2012-2013 ancora 2011 vari pretoriani, Costacurta, Gattuso, Inzaghi, non erano quelli sufficienti per fargli la stagione, però almeno era una componente che c'era. Non è sufficiente Ibrahimovic, ma male non fa, fa sicuramente bene. No, ma anche perché hai bisogno sempre di qualcuno che ti, facciamo così, diciamolo in modo pomposo, ti tramanda lo spirito di quella squadra lì, di quello spogliatoio, di quel modo di vivere una certa realtà importante come il Milano, come il Milan. Senti, sono stati due giorni dominati da due svedesi, non da uno, due svedesi dal nome curiosamente slavo, entrambi, cioè Ibrahimovic e Kulusevski. Anche qui io l'ho detto ieri forse un po' forzando, ma il mio pensiero, questo confronto di mercato e sul mercato tra Inter e Juventus è un altro argomento interessante. Guarda, a parte che sembriamo essere tornati in Italia agli anni 70, che appena dicevi un paio di nomi di svedesi subito noi italiani ci fermavamo, evidentemente sentiamo ancora quel fascino biondo. È una roba molto strana, perché oggettivamente sembra difficile non pensare che questa mostra su Kulusevski di Paratici, e se di Paratici è di Andrea Agnelli, perché Paratici è diretta emanazione del desiderato di Andrea Agnelli, è ovvia, è difficile pensare che non sia legata, uno, allo smacco subito per Haaland, e due, al marcare a uomo Marotta e l'Inter. Sì, per ragioni di rivalità dell'Inter, ma anche per ragioni proprio di rivalità personali che abbiamo già visto quest'estate quando marcavano su Lukaku e tutti pensavamo, ma che ti serve Lukaku quando c'hai Higuain e Cristiano Ronaldo e Dybala, e avrebbero allocato Higuain o Dybala da qualche altra parte per avere Lukaku. È veramente strana, perché le rivalità di mercato delle grandi, quelle ci sono sempre state, ma basta che se pensiamo agli anni 90, Berlusconi e Agnelli che si disputavano i Vialli, i Dentini, eccetera, ma questa marcatura stretta, ma poi da parte di una squadra che è tanto più avanti rispetto all'Inter, e per ragioni che non sono soltanto calcistiche, perché è ovvio che c'è un dente avvelenato perché te ne sei andato proprio nella squadra nemica, ma in fondo Marotta è stato cacciato dalla Juventus, quindi ti devi aspettare che lo sgarbo maggiore che ti possa fare sia quello. È veramente strana come situazione, e Kulusevski anche lui come Ibrahimovic, meglio avercelo che non avercelo. Se, cioè, certo. Vediamo già all'orizzonte un nuovo campo di battaglia di mercato, che è Eriksen, eh? Guarda, io credo che qualsiasi mossa di mercato diventerà un campo di battaglia, perché la Juventus che concretizza Kulusevski 36 ore dopo che Haaland si concretizza al Borussia Dortmund, sono malizioso io, scusate, ma io non ci credo che non sia collegato, perché ho conosciuto il mercato e sono umani, le persone che sono nel mercato sono esseri umani con le loro debolezze e con le loro pulsioni, facciamo così. Esattamente, per cui anche la telefonata che viene fatta a Vidal per testarlo dalla Juventus, anche quello è una lotta senza quarto, ogni obiettivo di mercato, soprattutto dell'Inter verso la Juventus, della Juventus verso l'Inter, perché la Juventus ha una potenza di sparo 10. L'Inter rispetto ai 10 della Juventus ha una potenza di sparo 7, perché comunque sia si può permettere qualche colpo da 75 come Lukaku, ma in generale non si può permettere un mercato da 150 come può fare la Juventus, comunque sia con vari stipendi da 6, 7, 8 milioni all'anno come Rabiot e Ramsey. La Juventus marca a uomo, perché ovviamente se pensiamo agli inizi anni 90, il Milan, quando viene coniato il termine Milan 2, non perché ci sono le seconde linee, ma perché il Milan è l'unica squadra che può sedere in panchina un'intera squadra titolare, e molti acquisti che ci si chiedeva ma perché li comprano per togliere agli altri. Esattamente. È chiaro, ma questo è anche una dichiarazione di rispetto, secondo me, della Juventus nei confronti dell'Inter, che assume la statura di una contendente credibile, cosa che è di fatto. Grazie Tancredi, a presto. A voi ragazzi, ciao. Buon anno a tutti. Buon anno anche a te. Ciao Luca, buongiorno. Buongiorno, buon anno. Buon anno. Da felicissimo tifoso interista e un po' dispiaciuto per i cugini, la mia domanda su Ibrahimovic è, non ho capito bene le cifre dell'ingaggio per questi suoi 6 mesi, e insomma, se lo può permettere poi in fin dei conti una squadra che per essere in campo ha dovuto cedere l'Europa League, insomma, i conti, come si dice, vanno pagati prima o poi. Sì. Grazie a lei Luca. Beh, se li può permettere, anche perché, come notava Tancredi Palmeri, insomma, l'operazione di Ibrahimovic è economicamente importante, ma non è, se parliamo di grandi squadre e del mercato attuale, una follia improponibile. Sono 3,5 fino alla fine di questa stagione, tantissimi soldi. 6,5 se non sbaglio in caso di rinnovo, anche lì tantissimi soldi, ma non sono cifre iperboliche. Tanto per dire, uno dei grandi vincitori di questo momento dell'anno è il solito Mino Raiola, che dal passaggio di Haaland dal Salisburgo al Borussia Dortmund ha intascato lui 15 milioni, 20 era una clausola recessoria piuttosto bassa pagata al Borussia Dortmund, che ha versato però 15 al professor Raiola. Manuel, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono tifoso milanista e sono contentissimo perché vedo nel ritorno di Ibra qualcosa di epico, stile Trono di Spade. Ma vorrei fare una domanda perché ho sentito un radio spettatore prima. Le rispondo però domani perché devo chiudere. Me la dica veloce e poi domani poi le rispondo. No, il livello fisico del campionato italiano in confronto a quello che c'è in Europa, pensando anche all'Atalanta, che secondo me è lì perché corre il triplo degli altri, sì. Pensando proprio a quel discorso lì sul campionato fisico italiano, che appunto è. Discorso fisico del campionato italiano, secondo me è un discorso lungo, si gioca un calcio fisicamente diverso. Ci sentiamo domenica, tutti convocati, weekend, dalle 17 alle 19, Claudia Schiattone, Roberta Frisani, ciao a tutti. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!